credo fondamentalmente che la Germania, che la signora Merkel, sta facendo i conti con i sondaggi dell'opinione pubblica tedesca. E i sondaggi dell'opinione pubblica tedesca in questo momento dimostrano che una netta maggioranza dei cittadini della Repubblica Federale sono contrari a un aiuto alla Grecia. La domanda è perché a questo punto una netta maggioranza dei tedeschi è contraria a un aiuto alla Grecia. Beh, fondamentalmente perché dal loro punto di vista la Grecia non va salvata. La Grecia non va salvata perché il paese non ha rispettato le regole del patto di stabilità e di crescita, perché il paese ha truccato i conti per un certo numero di anni e ha mentito ai suoi partner europei, e poi fondamentalmente perché aiutare la Grecia in questa circostanza, momento in cui almeno ufficialmente il governo di Atene dice di non avere bisogno di liquidità in maniera urgente, bene, aiutare la Grecia in questa circostanza, secondo l'establishment politico tedesco, significa in un modo o nell'altro creare aspettative sbagliate Anche nei confronti degli altri. presso gli altri paesi in difficoltà, Spagna, Portogallo e via di seguito. Quindi il tentativo tedesco è quello di non dare l'esempio cattivo.